hai coraggio, chiamalo. Non fuggire, non fuggire, affrontalo. Se ti piace, sfidalo. Nessuno potrà dirti quanto durerà. Un'ora, una vita, e come finirà? Non fuggire, non fuggire, stringilo. Dagli un bacio e abbraccialo. Non fuggire, non fuggire, vivilo. Non dubitare, scoprilo. Che ti importa della gente, delle apparenze? Impara che il vero amore è cosa rara. Non fuggire, non fuggire a quanto. Se necessario, rubalo. Perché non è peccato rubare in amore. Perché il peccato vero è fuggire. Che non è peccato rubare in amore, perché il peccato vero è fuggire.